Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Il giorno dopo, mentre entrava nell'ufficio insieme a Yssonnet, Federico vide attraverso la porta, quella che dava sulle scale, il lembo di una veste che spariva. Oh, mille scuse, disse Yssonnet, se avessi saputo che c'erano delle donne. Ah, quella era mia moglie, rispose Arnoux. Passava e si è fermata a farmi una visitina. Come? Disse Federico. Già, adesso se n'è andata, torna a casa. Di colpo, quanto stava in quell'ambiente, perse tutto il suo incanto. Ciò che vi aveva avvertito di confusamente aleggiante era svanito, anzi, non c'era mai stato. Provava un'infinita sorpresa, il dolore quasi di un tradimento. Arnoux, frugando nel suo cassetto, sorrideva. Si burlava di lui. Il commesso posò sulla scrivania un fascio di fogli umidi. «Ah, i manifesti!» esclamò il mercante. «L'ora di cena si allontana stasera!» Regimbard stava cercando il cappello. «Come? Mi lasciate solo?» «Le 7!» rispose Regimbard. Federico lo seguì. All'angolo di Rue Montmartre si voltò. Diede un'occhiata alle finestre del primo piano e si mise in silenzio a ridere di pietà per se stesso, ricordando quante volte e con quanto amore le aveva contemplate. Ma allora dove viveva? E come fare adesso per incontrarla? Intorno al suo desiderio si spalancava di nuovo, più grande che mai, la solitudine. La stessa mattina gli arrivò una lettera nella quale Delorier gli annunciava il suo arrivo a Parigi per il giovedì successivo. Federico si ributtò con violenza su quell'affetto tanto più solido e più elevato. Un uomo così valeva di più di qualsiasi donna. Non avrebbe più avuto bisogno di Regimbard, di Pellerin, di Yssonnet, di nessuno. Per poter sistemare meglio l'amico, comprò un lettino di ferro, un'altra poltrona, divise in due la spalliera del suo letto. E la mattina del giovedì stava vestendosi per andare incontro a Delorier quando il campanello della sua porta risuonò e comparve Arnoux. «Una parola di fretta! Ieri mi è arrivata da Ginevra una bella trota! Contiamo su di lei e per stasera alle 7 in punto, in Rue de Choiseul 24 bis! Non se ne scordi!» Federico dovette sedersi. Le ginocchia non lo reggevano. Ripeteva fra sé «Finalmente, finalmente!» Poi si diede a scrivere al sarto, al cappellaio, al calzolaio, facendo recapitare i 3 biglietti da 3 diversi fattorini. La chiave girò nella serratura e comparve il portinaio con un baule in spalla. Quando ravvisò l'amico, Federico si mise a tremare come un'adultera sotto lo sguardo dello sposo. «Cosa diavolo ti succede?» disse Delorier. «Dovresti aver ricevuto la mia lettera!» Federico non ebbe la forza di mentire. A braccia aperte si gettò sul suo petto. Delorier raccontò la sua storia. Il padre s'era rifiutato ancora una volta di mantenerlo, ma lui, forte in procedura, aveva finito per strappargli l'intera eredità materna, 7.000 franchi netti, che aveva con sé in un vecchio portafogli. Parlarono del passato, dell'avvenire, e ogni tanto, stringendosi le mani al di sopra del tavolo, si guardavano per un attimo con tenerezza. Ma arrivò un fattorino col cappello nuovo. Delorier, a voce alta, fece notare com'era lucida la fodera. Poi venne il sarto, di persona, a consegnare il vestito stirato. «Si direbbe che vai a sposarti», disse Delorier. Un'ora dopo sopraggiunse un terzo individuo che tirò fuori da una grande borsa scura un paio di scarpe di vernice, splendenti. Mentre Federico le provava, il calzolaio lanciava occhiate ironiche ai piedi del giovane provinciale. «Il signore non ha bisogno di nulla?» «No, grazie», rispose lo scrivano nascondendo sotto la sedia le sue vecchie scarpe stringate. L'umiliazione dell'amico mise Federico a disagio. Continuava a rimandare la sua confessione. Alla fine, come se un pensiero l'avesse colpito all'improvviso, esclamò «Accidenti, me ne ero dimenticato!» «Di che cosa?» «Stasera, sono fuori a pranzo!» «Dai d'Ambrèze?» «E come mai non mi dicevi niente nelle tue lettere?» «Non era dai d'Ambrèze, ma dagli Arnoux.» «Dovevi avvertirmi», disse Delorier. «Sarei arrivato un giorno dopo.» «Impossibile», rispose Federico bruscamente. «Mi hanno invitato da poco, proprio stamattina.» Per rimediare alla colpa e distrarre l'amico, si mise a sgrovigliare le corde del baule, a sistemare la roba nei cassetti. Voleva cedergli il letto e dormire lui nel ripostiglio. Poi, quando furono le 4, cominciò a prepararsi. «Tempo ne hai», osservò l'altro. Finì di vestirsi e se ne andò. «Questi ricchi», pensava Delorier. Sulle scale di casa Arnoux, Federico si fermò parecchie volte, tanto il cuore gli batteva forte. Un guanto troppo su misura gli si era scucito, e proprio mentre cercava di nascondere lo strappo sotto il polsino della camicia, Arnoux, che saliva alle sue spalle, lo prese a braccetto e lo fece entrare. L'anticamera era decorata alla cinese, con un lampadario dipinto appeso al soffitto e mobiletti di canna negli angoli. Attraversando il salone, Federico incespicò in una pelle di tigre. Mademoiselle Marta venne a dire che la mamma si stava vestendo. Arnoux la sollevò sino all'altezza della bocca per baciarla. Poi, dato che voleva scegliere di persona in cantina certe bottiglie di vino, lasciò Federico con la bambina. Era molto cresciuta dal giorno del viaggio a Montereau. I capelli bruni le scendevano in fitte bande ricciute lungo le braccia nude. La veste, a sbuffi come la gonnellina di una danzatrice, le scopriva le tenere gambe rosa. E la sua persona gentile sapeva tutta di fresco, come un mazzo di fiori. Federico non sentiva più alcun turbamento. I globi delle lampade, coperti di paralumi di carta traforata, facevano una luce biancastra che addolciva il color malva della tappezzeria di raso sulle pareti. Rientrò Arnoux e dall'altra porta Madame Arnoux comparve. Era avvolta nell'ombra e lui, da prima, non riuscì a distinguere che il viso. Portava una veste nera di velluto e sui capelli una lunga rete algerina di seta rossa che, attorcigliandosi al pettine, le ricadeva a sinistra fin sulla spalla. Arnoux presentò Federico. «Oh, ricordo benissimo il signore», disse ella. Poi quasi tutti insieme arrivarono gli invitati. Dittmer, Lovarias, Burier, il compositore Rosenwald, il poeta Théophile Loris, due critici d'arte, colleghi di Ussonet, un fabbricante di carta e infine l'illustre Pier Paolo Mencius, l'ultimo rappresentante della grande pittura, che portava con vigore, oltre alla gloria, i suoi 80 anni e una grossa pancia. Quando passarono in sala da pranzo, Madame Arnoux prese il suo braccio. Era rimasta vuota una sedia, quella di Pellerin. Pur sfruttandolo, Arnoux gli voleva bene. Ne temeva, d'altra parte, la lingua micidiale, al punto che sull'arte industrielle, per commuoverlo, aveva pubblicato il suo ritratto accompagnato da lodi iperboliche, e Pellerin, che era più sensibile alla gloria che al denaro, fece la sua apparizione verso le 8, tutto trafelato. La compagnia, i cibi, a Federico piaceva ogni cosa. Ma era la conversazione, soprattutto, quello che lo divertiva. La sua passione per i viaggi fu accarezzata da Dittmer, che parlò dell'Oriente. Soddisfece la sua curiosità per le cose del teatro ascoltando i discorsi di Rosenwald sull'opera, e l'atroce esistenza dei bohemiens gli parve divertente attraverso la gaiezza di Ussonet, che raccontò in tono pittoresco di avere passato tutto un inverno senza avere per nutrirsi che del formaggio olandese. Infine, una discussione sulla scuola fiorentina, che si svolse fra Lovarias e Burier, gli rivelò l'esistenza di alcuni capolavori, aprendogli nuovi orizzonti. Ascoltando queste cose, Federico guardava Madame Arnoux. I discorsi cadevano nel suo animo come metalli in una fornace, alimentavano la sua passione, producevano amore. Era seduto dalla sua stessa parte, a 3 posti di distanza. Ogni tanto lei si chinava un poco, voltando la testa per rivolgere una parola alla bambina, e allora, mentre sorrideva, le si scavava una fossetta nella guancia, portando sul suo viso la traccia di una bontà delicata. Furono serviti i liquori e la signora scomparve. La conversazione si fece assai libera. Arnoux brillava e Federico fu colpito dal cinismo di quegli uomini. Tuttavia, il fatto che si preoccupassero tanto delle donne metteva lui e loro quasi su uno stesso piano, aumentando la sua stima per se stesso. La signora era andata a prendere nel boudoir un cofanetto a fermagli d'argento. Era un regalo del marito, un lavoro del Rinascimento. Gli amici gli fecero dei complimenti, lei lo ringraziava. Commosso, Arnoux le diede un bacio davanti a tutti. Dopo si erano sparsi tutti qua e là in gruppi a chiacchierare. L'ottimo Mencius stava con Madame Arnoux in poltrona accanto al fuoco. La signora si chinava verso il suo orecchio, le loro teste si sfioravano. E Federico avrebbe accettato di essere sordo, brutto e infermo, pur di avere un nome famoso e i capelli bianchi. Qualcosa, insomma, che lo innalzasse a una tale intimità. Si struggeva, rabbioso contro la propria giovinezza. Madame Arnoux si avvicinò a Federico in un angolo del salotto e gli chiese se conosceva qualcuno degli invitati, se gli piaceva la pittura, da quanto tempo era a Parigi per studiare. Ogni parola, per il fatto di uscire dalla bocca di lei, sembrava a Federico qualcosa di nuovo, di esclusivamente dipendente dalla sua persona. Guardava con attenzione le frange della sua pettinatura che le accarezzavano appena la spalla nuda. Non riusciva a distaccarne gli occhi, sprofondava con l'anima nella bianchezza di quella carne. Eppure non osava sollevare le palpebre per guardarla più su, faccia a faccia. Rosenwald venne ad interromperli pregando Madame Arnoux di cantare qualcosa. Durante il preludio ella attendeva, poi le sue labbra si schiusero e un suono puro, lungo, filato si levò nell'aria. Erano parole italiane che Federico non capiva. All'inizio era un ritmo grave, simile a un canto di chiesa, quindi, animandosi nel crescendo, gli effetti sonori si moltiplicavano per calmarsi poi all'improvviso e la melodia riappariva amorosamente con un'oscillazione larga e indolente. Era ritta accanto allo strumento, le braccia abbandonate lungo il corpo, lo sguardo perduto. A volte, per leggere la musica, stringeva un istante le palpebre, abbassando la fronte. Nelle note basse la sua voce di contralto prendeva un'intonazione lugubre che dava i brividi, e allora il suo bel viso dai lunghi sopraccigli si reclinava su una spalla. Il petto si sollevava, le braccia accennavano ad aprirsi, il collo si rovesciava mollemente allo sgorgare dei trilli, come per offrirsi ad aerei baci. Emise tre note acute, ridiscese, ne lanciò una ancor più alta. Dopo una pausa, terminò su una nota tenuta. Gli invitati cominciarono ad andarsene. Madame Arnoux, venuta fino all'anticamera, tese la mano a Dittmer e a Ussonné che la salutavano. La tese anche a Federico. Egli avvertì una sorta di penetrazione in tutti gli atomi della pelle. Lasciò gli amici, aveva bisogno di essere solo. Il cuore gli traboccava. Perché quella mano offerta? Era un gesto irriflesso o un incoraggiamento? Ma che diamine! Sto diventando matto! E poi, cosa importava, dal momento che poteva frequentarla, ormai senza difficoltà, vivere nella sua atmosfera? Le strade erano deserte. S'era fermato a metà del Pont Neuf, a capo scoperto, e aspirava l'aria avidamente. Sentiva salire dal fondo di se stesso qualcosa di inesauribile, un flusso di tenerezza che lo snervava, simile al movimento che facevano le onde sotto i suoi occhi. All'orologio di una chiesa suonavano le ore, lentamente, e gli parve che una voce l'avesse chiamato. Fu preso allora da uno di quei soprassalti dell'anima, quando sembra di essere trasportati in un mondo più alto. Si sentiva investito di una capacità straordinaria di cui non conosceva l'oggetto. Si domandava, seriamente, se doveva diventare un grande pittore o un grande poeta. Alla fine decise per la pittura, pensando che le esigenze del mestiere lo avrebbero avvicinato a Madame Arnoux. E così aveva trovato la sua vocazione. Lo scopo della sua vita era chiaro, ormai, l'avvenire infallibile. Quando ebbe richiuso la porta, sentì qualcuno che russava nello sgabuzzino buio accanto alla sua camera. Era quell'altro, non ci aveva più pensato. Nello specchio gli si offriva il proprio volto. Si trovò bello e rimase un minuto a contemplarsi. Il giorno dopo, prima di mezzogiorno, aveva già comprato una scatola di colori, pennelli, un cavalletto. Pellerin era d'accordo di dargli lezione e Federico lo portò nel suo appartamento per controllare che non mancasse niente fra i suoi arnesi di pittura. Delorier era rientrato. La seconda poltrona era occupata da un giovanotto. Lo scrivano lo segnò a dito esclamando «Guardalo, è lui in persona, Senecal!» Il tipo non piacque a Federico. La sua fronte era allungata dalla foggia dei capelli tagliati a spazzola. C'era qualcosa di duro e di freddo nei suoi occhi grigi e la lunga redingote nera, tutto il suo modo di vestirsi, faceva pensare al pedagogo e all'ecclesiastico. Chiacchierarono all'inizio dei fatti del giorno, fra le altre cose dello Stabat di Rossini. Senecal, interrogato, dichiarò che non andava mai a teatro. Disse anche che si sentiva irritato quotidianamente dalla pubblicità dell'arte industrielle. Arnoux rappresentava ai suoi occhi un mondo funesto alla democrazia. Repubblicano, austero, sospettava di corruzione qualsiasi forma d'eleganza. D'altra parte non ne aveva bisogno ed era di un'onestà inflessibile. La conversazione stentava ad animarsi. Al pittore vennero ben presto in mente certi appuntamenti, al ripetitore i suoi allievi. Quando se ne furono andati, dopo un lungo silenzio, Delorier fece diverse domande su Arnoux. «Più avanti mi porterai da lui, vecchio mio?» «Certo», disse Federico. Poi pensarono a sistemarsi. Delorier aveva ottenuto, senza fatica, un posto di secondo scrivano nello studio di un avvocato. S'era iscritto ai corsi di diritto, s'era procurato i libri indispensabili e la vita che avevano tanto sognata ebbe inizio. Fu, per grazia della loro giovinezza, una vita incantevole. Dato che Delorier non aveva accennato ad accordi finanziari, neanche Federico ne fece parola. Pensava lui a tutte le spese, badava al guardaroba, s'occupava dell'andamento di casa. Ma se bisognava fare una predica al portinaio, era lo scrivano che se ne incaricava, continuando a svolgere, come in collegio, la parte del protettore, dell'anziano. Dopo una separazione che durava tutta la giornata, si ritrovavano la sera. Ciascuno prendeva il suo posto accanto al fuoco e si metteva al lavoro. Ma non lasciavano passare molto tempo senza interromperlo. Erano confidenze interminabili, allegrie immotivate, discussioni qualche volta per una lampada la cui fiamma vacillava o un libro che non si trovava più, collere di un minuto che si placavano in scoppi di risa. Lasciavano aperta la porta del ripostiglio e continuavano a chiacchierare da lontano, ciascuno nel suo letto. Molte volte erano colpiti insieme da uno stesso pensiero, oppure, se si mettevano a parlare, non vedevano più niente di quanto li circondava. Delorier avrebbe voluto la ricchezza, che considerava uno strumento di dominio sugli uomini. Gli sarebbe piaciuto far muovere parecchia gente intorno a lui, sollevare molto rumore, avere 3 segretari ai suoi ordini e dare un gran pranzo politico ogni settimana. Federico s'arredava un palazzo alla Moresca, dove vivere sdraiato su divani di cashmere, al mormorio di una fontana, servito da valletti negri. E questi sogni diventavano alla fine così precisi che gli si rattristava come se ne avesse perduto l'oggetto. «A che serve parlarne?» diceva. «Dal momento che non avremo mai niente di tutte queste cose». «Chi può dirlo?» replicava Delorier. Malgrado le sue opinioni democratiche, lo spingeva a farsi avanti in casa d'Ambreuse. L'altro gli ricordava i tentativi già fatti e con questo ritornaci, ti inviteranno. Thank you. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it